E allora, eccoci qua, come state? Ci sentite? Questa è Cura Radio, sono le 19 passate da pochi minuti. Io spero che voi ci stiate sentendo. Noi abbiamo fatto tutto il possibile perché questo succedesse. Cura Radio, io sono Mattia e con me, compagna di questa avventura in diretta Skype da Caldonazzo, c'è Francesca. Ciao Francesca! Ci sei Francesca? Ecco, piccolo primo problema con Skype, ci Ci siamo? sono, ciao Mattia, Eccola! Ciao ciao. Francesca, allora come stai? E come io sto bene, come dicevi te, sono qua a Caldonazzo, nella mia ovvia quarantena, e tu come stai, Mattia? Io sto bene, sono qui davanti a uno schermo di computer dove c'è una quantità enorme di software, e sicuramente qualcosa andrà storto, ma perché dovrebbe farlo? Noi siamo fiduciosi, ci proviamo, questa è una trasmissione, casalinga, artigianale, siamo felici di essere qui e siamo felici anche di spiegarvi, Francesca, di spiegare a chi ci sta ascoltando che cos'è Cura Radio, da dove nasce l'idea. Beh, l'idea nasce da te soprattutto, ma da noi, insomma, dalle nostre chiacchierate, dai nostri scambi di idee, e nasce dalla voglia e dal desiderio che ci è venuto di prenderci cura di noi stessi, di creare uno spazio, anche se virtuale, dove poterci incontrare, una specie di cortile dove poterci raccontare, incrociare le nostre storie, incrociare le nostre idee e costruire giorno per giorno, perché insomma la nostra ambizione sarà quella di andare in onda tutte le sere alle 7, a parte il sabato e la domenica, per costruire un piccolo mosaico di quello che è la realtà che questo virus, che questa pandemia ci sta costruendo attorno. E Radio Cura nasce, proprio lo dice il nome, per prendere cura, prenderci cura di noi stessi, nasce da un moto di affetto e dal desiderio di farci bene, perché in fondo ce lo meritiamo. Sì, quello che vogliamo fare è chiacchierare con voi, sentire come state, cercare un po' anche di curare, da qui il titolo, di questo nostro piccolo, esperimento che speriamo crescerà, di curare quelle reti di solidarietà che sono un po' in fondo un danno collaterale, di quello che sta avvenendo ora in tutto il mondo, un danno collaterale di questa pandemia. Le reti di cura e di sostegno, come anche quelle di attivismo politico e sociale, sono in sofferenza, ovviamente, perché non c'è più la possibilità di stare vicini gli uni agli altri, o quantomeno non si può più farlo in modo corporeo, in presenza. E l'idea di questa radio, di questa trasmissione, nasce per dare un piccolo strumento per continuare ad agire, anche se nella distanza, per dare la parola a chi continua, nonostante mille difficoltà, a impegnarsi. E poi, come dicevi tu, vorremmo anche semplicemente chiedere alle persone come state, vorremmo chiedere di raccontarci la vita ai tempi del virus, per come un atto di solidarietà umano, gratuito. E l'idea, Francesca, è un po' però quella di proporre anche dei temi nel corso di queste nostre trasmissioni. Sì, perché noi siamo una radio che appunto vuole raccogliere le storie, vuole intercambiare le esperienze, vuole farsi compagnia, però siamo ancora giornalisti, sia io che te, siamo persone che vogliono tenere la critica sveglia, la mente attiva, e questo virus sta evidenziando le cose positive di cui tu parlavi, quindi le reti di solidarietà che in qualche maniera, anche se in difficoltà, continuano a vivere. Però stanno fotografando anche una società in difficoltà, con delle forti contraddizioni, con delle comunità che si sono trovate più disgregate di quello che si pensava, quindi che hanno bisogno di riconnettersi e di reinventarsi. Abbiamo sotto gli occhi quello che non sta funzionando nella nostra società e attraverso la nostra narrazione vogliamo anche provare a costruire delle risposte. Quindi cerchiamo tutti i giorni, insomma, di costruire questo percorso. La sigla che tu hai mandato è estremamente significativa. I Glad Rags, degli stracci felici, è quello che vogliamo essere, quindi contribuire con la nostra positività, però appunto alimentando una critica e una visione d'insieme attraverso tutte le nostre voci. Sì, anche perché nessuno di noi vorrebbe ritornare alla normalità se la normalità era quella di prima, e quindi è anche utile interrogarci su come usciremo da questa crisi, che cosa vorremmo fare poi, cosa vorremmo diventare anche come società e comunità. Hai fatto bene a citare i Glad Rags, che sono gli artisti che hanno prodotto il brano che avete sentito all'inizio, che sarà un po' la nostra sigla. E è importante dirlo perché questo brano che avete sentito si chiama Social Capital. Loro sono una band di Chicago e diciamo soprattutto che la cosa importante è che questo è un brano licenziato con Creative Commons, e questo ci dà la possibilità di mandarlo in onda, ed è anche un brano bellissimo. Quindi cercateli su internet, i Glad Rags, che sentirete nel corso della nostra trasmissione. Abbiamo fatto le presentazioni, Francesca, diamo anche qualche modo per chi volesse contattarci di farlo. È molto importante, noi vorremmo avere un riscontro da chi ci ascolta, avervi anche in diretta per chiedervi come state, per farci raccontare le vostre storie. Naturalmente c'è la nostra pagina Facebook, Cura Radio Trento, questo è facile, ci siete già se ci state ascoltando. Poi c'è il nostro Skype, Cura Radio, anche qui cercatelo, lo trovate subito. Abbiamo un'email, curaradio@autistici.org, e un numero di telefono. Il numero è 349-0535-715, 349-0535-715, mandateci anche dei messaggi o telefonateci, in questo modo noi potremo comunicare con voi. Allora, Francesca, a questo punto presentiamo le ospiti di questa sera, che cosa dici? Sì, prima di presentare le ospiti, vorrei aggiungere che, insomma, nella Vai. nostra disordinata fantasia, un po' quali sono gli argomenti, no, che vogliamo affrontare, che abbiamo pensato di affrontare durante la settimana. Certo. Parleremo di tanti aspetti, che potranno contribuire a questo puzzle collettivo ai tempi del coronavirus e poi lo spazio per i microfoni aperti con i contatti che hai già dato. E vogliamo parlare di aspetti sociali, vogliamo parlare di aspetti personali e partiamo oggi con un argomento, con un titolo molto bello. Che per una radio è particolarmente significativo, cioè Libera la parola. E le nostre prime ospiti sono Irene Serangeli e Sara Ballardini e sono rappresentanti proprio di una delle esperienze, secondo noi, più belle, più importanti che il nostro territorio ha prodotto negli ultimi anni, che è proprio la scuola per migranti, la scuola di italiano per migranti di Libera la parola. Allora, lasciamo la parola a chi ci può raccontare di questa esperienza. Sono Irene Serangeli, che è una cara amica, è una dottoranda delle scuole di studi internazionali e si occupa per Libera la parola della parte legale, e Sara Ballardini, altrettanto una carissima amica. Entrambe sono donne con cui abbiamo spesso condiviso dei cammini di lotta sociale molto belli, molto importanti. E Sara Ballardini, appunto, una delle insegnanti di Libera la Parola. Allora, ciao ragazze, come state? Ci siete? Ciao Francesca. Sì, Ciao ciao Francesca. Francesca, ciao Mattia. Ciao. Ciao. Ciao Sara, Ciao ciao Irene. entrambe. Eccoci, allora, Francesca vi ha presentate due parole sulla scuola Libera la Parola, poi voi ci direte di più, ma si tratta di un progetto indipendente a Trento che non vuole semplicemente insegnare la lingua italiana agli stranieri, ma creare anche uno spazio di condivisione, di idee, di intenti, no? Un luogo di accoglienza, di mutualismo, anche per parlare di diritti, diritti dei migranti, e partecipare anche a tutte, diciamo così, le battaglie politiche per la costruzione di una società aperta e antirazzista. Tutti possono partecipare alle elezioni, naturalmente senza discriminazioni, senza la necessità di esibire documenti. Lo scopo è quello di creare un clima di condivisione, di scambio tra insegnanti e allievi. Ecco, forse Francesca, se mi permetti, io farei la prima domanda, magari a Sara o a Irene, vedete voi chi preferisce prima intervenire. La condivisione, no? È uno dei punti chiave del vostro progetto. Come si fa a condividere in un momento come questo, nel quale, bisogna stare a distanza di sicurezza? Vediamo chi vuole rispondere. Sara. Comincio io. È un'ottima domanda, è una grandissima sfida che ci siamo poste con le altre persone che partecipano a questo progetto. Anche perché la condivisione in libera la parola fino all'inizio dell'emergenza del virus è stata realmente di vicinanza anche fisica. Prima, quando nella presentazione della radio continua a tornare la parola cura. Credo che libera la parola ha tantissimo a che vedere con la cura. In fondo abbiamo creato lo spazio per prenderci cura di noi, nel senso di comunità, no? Di comunità aperta, inclusiva, che include chiunque sia qua in questo momento. E la cura nelle elezioni normali, diciamo fuori dall'emergenza, viene anche dalla cura dello spazio, il fatto di prendere un tè insieme, il fatto di scambiarsi e calore anche concretamente proprio al lato della stufa e lo scambio del sorriso e del tempo. Ecco, quest'ultima cosa, il fatto di scambiarsi reciprocamente, insistiamo tantissimo sul fatto che sono relazioni reciproche. Infatti, anche quando ci troviamo a raccontare del progetto Libera la Parola, ci mancano un po' le parole, la parola insegnante e studente. Non rispecchiano quello che succede dentro lo spazio in libera la parola, perché in realtà partecipiamo tutti e tutte, ognuna con la propria lingua, con i propri strumenti linguistici e insieme costruiamo qualcosa di nuovo. Ecco, la lingua è un po' la scusa, il pretesto, il mezzo per arrivare a una cosa costruita insieme. A distanza possiamo usare la parola. Possiamo usare il sorriso, stiamo cercando il più possibile di fare videochiamate in piccoli gruppi e possiamo sicuramente portare avanti quello che è il prendersi cura dei diritti delle persone. Crediamo fermamente che ci prendiamo cura dei diritti informandoci, no? Unendo le esperienze e le competenze e in libera la parola c'è una ricchezza delle esperienze più diverse, appunto delle competenze più diverse per rivendicare i diritti. Lo facciamo in rete, lo facciamo partecipando anche all'Assemblea antirazzista e lo stiamo continuando a fare anche in queste settimane. Molto concretamente, appunto abbiamo organizzato dei piccoli gruppi, ci sentiamo via telefono, WhatsApp, ogni mezzo è possibile e ci raccontiamo come stanno andando queste giornate, ci raccontiamo quali sono le difficoltà. E anche in queste conversazioni escono problemi, difficoltà di tipo legali, ci rivolgiamo, passo la parola a Irene per le questioni che riguardano più strettamente i diritti dei migranti, che è uno dei temi chiavi dello spazio di Libera la Parola. E siamo molto contente di poter condividere nella nostra pagina Facebook alcune delle espressioni di questi gruppi. Poi ci saranno ospiti nella trasmissione Omar e Salah che ci hanno regalato una ricetta, però ecco, sarebbe molto di più che si può raccontare. Lascio la parola direttamente a Irene o la ripasso Francesca, a direi, Francesca, magari se vuoi fare tu una domanda, sei. voi? Ma io innanzitutto appunto lascerei sicuramente progredire, andare avanti Irene. Con il discorso che stava facendo Sara, però le chiedo di fare una riflessione con noi proprio anche su cosa significa in questo momento qua, il i diritti, come cambiano i diritti in questo momento? Stiamo rimettendo in discussione un po' le nostre visioni. C'è chi, anche Papa Francesco, ha parlato: siamo tutti nella stessa barca, poi le barche arrivano e le fermiamo, poi troviamo delle soluzioni su altre barche, e quindi vediamo che continuiamo ad oscillare tra una visione appunto di amore globale e invece certi confini continuano a rimanere e anche molto forti. Quindi a partire dalla vostra esperienza, dai diritti delle persone che voi seguite, chiedo a Irene un po' di andare oltre e aiutarci a capire cosa significa in questo momento qua appunto avere più o meno diritti. Grazie mille per la domanda. Allora, sicuramente siamo in una situazione complessa, no? Perché, come dicevate anche voi, siamo in un momento di svolta. Da un lato si potrebbe scardinare un sistema, quello della migrazione, si potrebbe ripensarlo in termini molto più umani. Dall'altro lato, però, quello che noi stiamo vedendo in realtà sono appunto barche respinte, persone che vengono respinte sui confini e un'immobilità dei migranti che ne aggrava la situazione di marginalità e le espone a un maggior rischio. E è un momento molto difficile anche perché immaginiamo che è difficile per tutti, no? Molti di noi non sanno precisamente come accedere ai sussidi, non sanno come organizzare la propria attività lavorativa. Le persone migranti, oltre a questi problemi che condividono con noi, hanno i problemi dei documenti, del loro status legale. È vero che in questo momento la situazione è in qualche modo sospesa, no? Perché ad esempio in Italia fino al 15 giugno tutti i permessi di soggiorno rimangono validi e probabilmente se nel caso verrà anche prorogato, io non so quella che è l'idea del governo, però non c'è un piano strutturato e quindi le persone che ad oggi comunque si trovano sul nostro territorio, hanno moltissimi dubbi rispetto a quello che sarà il loro futuro, a come poter mantenere uno status legale sul territorio italiano. Ed è per questo che abbiamo pensato all'interno di Libera la Parola comunque di mantenere uno spazio d'ascolto anche a livello legale, perché in questa situazione appunto di emergenza giustamente sono state imposte delle distanze, però queste distanze hanno fatto venire meno tutti quei servizi, o comunque hanno ridotto veramente all'osso molti dei servizi legali di consulenza che erano prima aperti qui sul territorio di Trento. Motivo per cui abbiamo pensato proprio col gruppo degli insegnanti di, diciamo, tramite le conversazioni anche fare emergere dei problemi, no? E quindi c'è una buona sintonia nel senso che gli insegnanti durante le conversazioni riescono a capire qual è la situazione del ragazzo, no? E poi se emergono delle preoccupazioni o dei reali problemi, possono in qualche modo riferire a me e io poi contatto appunto la persona, il ragazzo, e sempre tramite videochiamate di solito cerchiamo di mantenere questo meccanismo e cerchiamo di parlarne, di confrontarci e se possibile trovare delle soluzioni. E molto spesso in realtà c'è soltanto da aspettare proprio perché siamo in una situazione di sospensione, però il potersi confrontare, il poter avere un'altra opinione aiuta moltissimo. E questo è quello che riguarda, diciamo, la situazione attuale in questo momento. Per il futuro sicuramente dobbiamo porci degli interrogativi, no? Perché appunto diciamo siamo tutti sulla stessa barca, in questo momento nessuno può uscire dal territorio italiano e la domanda è cosa succederà quando questa emergenza, speriamo presto, verrà meno, no? E quindi finalmente si troverà una soluzione e ci troveremo con persone sia italiane sia straniere che si troveranno in situazioni di marginalità e di difficoltà economica più acuita ancora rispetto a prima, e quali saranno le risposte anche rispetto all'idea dello status legale delle persone. Se fosse possibile pensare a un ragionamento, se ne parla ultimamente sui giornali, è uscito anche oggi sull'Avvenire, se non sbaglio, rispetto all'esigenza di una sanatoria, rispetto all'esigenza di far venir meno questa sovrastruttura dei permessi di soggiorno ancorati al lavoro e a requisiti così rigidi in un momento come questo di emergenza in cui probabilmente certe cose vanno ripensate a livello, cercando di portarle su un ragionamento più umano. Ecco, la questione, tra l'altro, Irene, della sanatoria che hai sollevato ora sarà anche, tra l'altro, uno dei temi, no, di una delle nostre trasmissioni qui, a Cura Radio. Io, intanto ho chiamato Omar, uno degli studenti della Scuola Libera la Parola. Buongiorno Omar, ci sei? Buongiorno a tutti. Buongiorno, Buonasera a te. buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Allora, stai con noi, Omar. Noi continuiamo un attimo a chiacchierare con Sara e Irene e poi torneremo anche a parlare con te, giusto per fare una domanda a Sara, se mi permetti, Francesca. Come fate proprio quotidianamente in questi giorni a restare in contatto con i vostri studenti? Quanti sono e come lavorate con loro? Si parla tanto anche di didattica online, no? In questo caso vi viene in aiuto o è soprattutto una questione di mantenere una relazione? Allora, ci siamo organizzate nei modi più vari, ecco, siamo stati veramente molto creativi, per cui non c'è una modalità e più o meno stiamo coinvolgendo una cinquantina di persone fra chi è madrelingua italiana, per cui facilita un po' i gruppetti, e chi invece non lo è, più o meno siamo una quindicina, appunto, madrelingua e, su 30-35 persone. Che stanno imparando l'italiano, ma qualcuno che lo parla già più che fluentemente, no? Per cui è uno spazio di conversazione. Alcuni dei gruppetti si sono organizzati facendo proprio esercizi, per cui la persona che parla meglio italiano propone degli esercizi su cui poi si lavora insieme, e altri gruppi hanno cominciato a lavorare sulle ricette, perché è sembrato uno dei temi comuni e anche uno dei modi di mantenersi allegri, no? E di stare bene nonostante le difficoltà di questi momenti. Altri gruppi stanno lavorando sul tema del coronavirus, che, come ha ricordato bene Irene prima, ci accomuna tutti, ma in alcune situazioni si è andato ad aggravare delle situazioni che già erano critiche prima, no? Per cui, se è vero che il virus ci accomuna tutti, non ha gli stessi effetti in tutte le case, ecco. E per cui si sta cercando un po' di raccogliere testimonianze che possono esserci utili anche dopo, no? Per ripartire dopo il virus, capire quali sono state le differenze nel viverlo e nel reagire. Ci sono poi gruppetti che stanno semplicemente chiacchierando, alcuni ci hanno chiesto aiuto, alcuni delle persone che frequentano Libera la Parola frequentano anche altre scuole, per cui il centro EDA principalmente, per cui in questo momento hanno la didattica a distanza e ci hanno chiesto aiuto nel portare avanti questo. E ad alcuni abbiamo suggerito delle app, sono veramente i modi più vari. E a tutti stiamo proponendo cose tipo la campagna per la sanatoria. Prima Irene nominava questo come uno dei temi chiave. Noi abbiamo aderito con convinzione alla campagna lanciata da Melting Pot e la tematica diventa anche motivo di conversazione e lezione di lingua che va insieme al capire una proposta, sostenerla. Tantissime persone ci hanno mandato la foto in sostegno, la foto con il cartello sanatoria subito e in sostegno alla campagna. E così come, per fare un altro esempio, il volantino del bonus alimentare per alcuni gruppi è stato testo motivo di conversazione, no? Cerchiamo di partire da quello che è il materiale autentico, il materiale con cui la comunità comunica realmente nel quotidiano. Sì, tra l'altro della campagna della sanatoria subito parleremo nelle prossime puntate, proprio perché anche nel nostro piccolo sicuramente vogliamo adottare questo messaggio e questa lotta perché ci pare particolarmente interessante. E a Sara, visto che è l'ultima che stava parlando, ma poi anche Irene, voglio chiedere un'ulteriore riflessione proprio su la questione della sanatoria e quanto questo momento così, questo tempo così strano di sospensione, di dolore, ma anche di costruzione, come si diceva, di percorsi solidali, può rimettere in campo alcune delle, così, delle storture che la nostra società prima presentava. Quanto e come possiamo provare in questo momento qua a costruire dei diritti più solidi e una visione differente di una società globale non divisa da confini, non divisa da muri, ma invece unita da un'idea comune di miglioramento, anche di lotta evidentemente al virus, insomma, poi si cercherà di capire che modalità ha questa malattia, però sicuramente quello che ci sta chiedendo di rimettere in discussione è proprio un certo tipo di visione e anche un rapporto fra di noi e fra noi e il pianeta, fra noi e l'ambiente. Quindi cosa possiamo chiedere in questo momento a noi stessi per migliorare, essere più includenti e essere più equi e tutti insieme? Se vuoi ripartire te, Sara, poi lo chiedo anche a Irene. Noi siamo fermamente convinte che l'unico modo di ripartire è appunto farlo insieme, per cui prendendo veramente, ascoltandoci realmente anche nella fatica dei mezzi di comunicazione e nella fatica fisica dell'isolamento e nella fatica di chi già sta vivendo il dramma del dramma economico del ritrovarsi senza risorse. Ecco, a me viene da rispondere questo, no? Che l'unico modo concreto e reale che troviamo per costruire una cosa che speriamo possa essere migliore di quello che c'era prima del virus è proprio mantenerci insieme e diventa una sfida realmente molto grande, ma abbiamo anche tanti bei segnali, insomma, di come si possa, nonostante la distanza, lavorare insieme alle cose, no? E portare avanti dei temi comuni, riconoscendo le enormi difficoltà. E allora a questo punto io vi propongo di tornare da Omar, che ci ha ascoltati fino adesso. Omar, ci sei? Mi senti? Sì. Ciao Omar. E chiedo anche... Chiedo anche alle altre persone, a Sara, Irene e a Francesca, se sentite Omar. No, io non lo sento purtroppo. Non lo sentite, allora, lo sento solo io. E a questo punto magari faccio io qualche domanda a lui. Ora non lo sentite ancora? Pronto, Omar, ci dici qualcosa? Sì. Ecco. Allora, Omar... Lo sentiamo adesso, Mattia. Ah, bene, perfetto. Allora, Omar, senti, grazie per essere con noi questa sera, prima di tutto. Ci senti, Omar? Sì. Senti, allora, volevo dirti, prima Sara ci ha raccontato di questa cosa simpatica e piacevole che state facendo. Mettete su Facebook, sulla pagina di Libera la Parola, che invito tutti gli ascoltatori ad andare a vedere le vostre ricette, delle ricette tipiche o che conoscete. Ci racconti un po' la tua di ricetta, Omar. Come si chiama prima di tutto e da dove viene? Mi chiamo Gai Omar, vengo dal Gambia. Ho 27 anni. Allora, questo ingrediente, la ricetta per cucinare il domodar si chiama. Ok. E come si fa? Si fa pomodoro, patate. Sì. Salsa di pomodoro, peperoni. Sì. Cipolla, pollo, riso. E poi? Burro di arachidi. Burro di sale. Acqua e sale. Ok, poi si mette tutto in padella e Allora. via? No, ti fa così, fallare le patate, Ok. togliere le cipolle e peperoni. Ok. Beh, mi sembra gustoso, Omar. Questa è una ricetta che hai imparato quando eri in Gambia. In E Gambia, sì. lì si fa, è tradizionale, è un piatto tradizionale? Sì, è tradizionale. E tu invece come stai? Come vivi questo momento in cui siamo tutti chiusi in casa? In questo momento estivo, tutti estivo a casa, quindi per rimanere a casa chiusi. E le lezioni di italiano riesci a seguirle? Sì, ho fatto i compiti a casa così. Ah, bene, non volevamo controllare se avevi fatto i compiti, per carità. Invece sì, invece sì. Omar, senti, grazie mille per essere stato con noi. E Grazie grazie per la tua ricetta e buon appetito. Ciao Omar. a voi. Ciao. Eccoci, Francesca. Mattia, ma io volevo chiedere a Omar, però si sentiva in maniera un po' Era un po' difficoltosa, così quindi così, sì. magari lo chiedo a te se lo sai o a Irene e Sara. Volevo sapere da dove ci parlava e un po' qual è la sua storia, la sua situazione. Sara, Irene, ci siete? Ma sì, ci siamo. E Omar, come diceva lui, appunto è un ragazzo che viene dal Gambia, è in Italia ormai da qualche anno, e frequenta regolarmente la scuola di italiano e appunto ha anche un buon livello di italiano in realtà. Al momento è a Trento, penso da quasi un annetto, credo ormai. E niente, è alla ricerca in questo momento di un lavoro, credo, e soltanto che appunto non è proprio il periodo migliore per cercare lavoro. E così, come informazioni, diciamo, di base. Benissimo, allora io vi Aggiungerei solo che, prego. come tanti altri persone che frequentano Libera la Parola, è una delle persone che sta facendo molta fatica a trovare casa. E perché si scontra con un mercato immobiliare che è veramente di difficilissimo accesso, a maggior ragione se hai la pelle nera. Ecco, solo aggiungere questo. No, e hai Sì. fatto molto bene, Sara, ad aggiungerlo perché, insomma, se l'idea di questa radio è raccogliere storie, fotografie sonore, pezzettini di vita. Abbiamo deciso in maniera significativa di partire con voi e con la vostra esperienza, perché comunque dobbiamo sempre, almeno penso che succeda un po' a tutte e tutti noi, che tutto sommato siamo sicuramente molto fortunati. Primo perché stiamo bene, ce lo siamo detti all'inizio trasmissione, stiamo bene, e poi perché abbiamo una casa, e per chi è fortunato anche una casa. Magari con degli spazi verdi o comunque dove si possa vivere e respirare bene. Dobbiamo ringraziare, penso, la nostra buona sorte ogni giorno che in questo momento ci ha trovati con queste possibilità, con questa fortuna. Quindi penso che parte del nostro percorso, della nostra volontà con questo piccolo segno della radio, sia quello anche di riflettere in maniera costruttiva su chi invece sta affrontando questo momento con delle difficoltà oggettive che devono però cambiare nei prossimi tempi, perché questo è anche un po' il nostro impegno. Sì, tra l'altro, Francesca, noi abbiamo parlato con Omar, che è un ragazzo del Gambia, e allora io vi farei una proposta adesso. Facciamo una piccola pausa musicale, vi spiego, è una questione che è assolutamente in tema con quanto stavamo ricordando. Poi riprendiamo perché avremo un altro ospite, sempre della scuola Libera la Parola, che sta frequentando i corsi di italiano, in questo caso a distanza, si tratta di Salama. Prima io vi farei ascoltare un brano che ho registrato, un po' particolare, che ho registrato 2 anni fa quando ho fatto un audio documentario alla residenza Fersina e avevo chiesto agli ospiti della residenza di fare una cosa molto semplice, se avevano voglia di farlo ovviamente, di cantarmi una canzone che per loro era importante, significativa. E guarda caso, tra le canzoni che ho registrato allora c'è una canzone cantata da un ragazzo del Gambia. Se siete d'accordo, ve ne faccio sentire un pezzo, va bene? Vado? Ci siete Vai, vai, ancora? Boh, Mattia. Ascoltiamo andiamo, dai. volentieri. Così. Wayo mazabale sonike, nijogo la mogodise mazabale sonike o. Amazabale se, nijogo la mogodise mazabale se o. Amina gaja ngala maisonale, ngala maisona shene gene yara. Ngaja zize ngala maisona dunonyana o. Ongala maisona shene kene yarao. O kaburo minye ngala le kalane kao. O kaburo minye ngala le kalane kao. Ngusra ya minye ngala le kalane kao. Ngusra ya minye ngala le kalane kao. Wayo masabale kolanga. Ngunjugula mogoti se masabale kolanga o. Amasabale se, ngijugula mogoti se masabale se o. Amina gaja ngala maisona le, ngala maisona shene kene yara. Ngaja si se ngala maisona dono nyana o, ngala maisona shene kene yara o. O kaburo minye ngala le kalane kao. O kaburo minye ngala le kalane kao. Ngusra ya minye ngala le kalane kao. Ngobana minye ngala le kalane kao. Wayo mazabale sonike, nijugula mogoti se mazabale sonike o. Amasabale se o, nijugula mogoti se mazabale se o. Amina gaja ngala maisona le, ngala maisona shene kene yara. Ngaja si se ngala maisona dono nyana o, ngala maisona shene kene yara. O kaburo minye ngala le kalane ka, o kaburo minye ngala le Ecco, questa era dunque una canzone, una canzone raccolta alla residenza Fersina qualche anno fa da un ragazzo gambiano che ha deciso di interpretare questa canzone che per lui era importante. Mi sentite Francesca, Irene, Sara? Ci sentiamo Sì, forte e chiaro, sentiamo Mattia. bene. Avete sentito il brano? Siete riuscite? Sentito tutto molto Sì. bene, molto bello. Ah, bene, mi fa piacere. No, lo chiedo perché a volte non si capisce bene che cosa stia succedendo. Dal punto di vista audio, è il bello della diretta, diciamo così. A questo punto io a questo punto saluto Salah che è in linea con noi. Ciao Salah. Ciao. Come stai? Bene, grazie. Allora, ti saluto e siamo in diretta e con noi c'è anche Francesca e le insegnanti Sara e c'è anche Irene con noi Buonasera a questa tutti. sera. Buonasera Eccoci qua. a Ecco. tutti. Ciao Salam. Ciao Salam. Ciao. Allora, come va? Ciao, Come ciao. stai vivendo questi giorni un po' strani di reclusione, Sara? Eh sì, come tutto il mondo. Come tutto il mondo, chiuso in casa. Perché in casa sì. Chiuso in casa. E senti, anche tu, come Omar, hai proposto una ricetta, su Facebook. Ce la vuoi Sì. raccontare? Ok. Questa è una ricetta che si chiama tagine Sì? marocchino. Come cucinare Come si cucina? Sì. Ok. Faccio il pollo in una pentola. Sì. Con cipolla e l'aglio e olio di oliva. Sì. E lo cucino per 5 minuti. Mm-hmm. Dopo io faccio un bicchiere di acqua. Fai bollire l'acqua? No, faccio l'acqua solo per non bruciare. Ok. Dopo io metto le patate con zucchini e altre verdure se c'è, come melanzane anche. Sì. Io metto gli ingredienti. Sì. Peperoncino. Sì. E di sopra metto ancora l'olio di oliva. Mm-hmm. E ancora un bicchiere di acqua. Ok. E il pomodoro sopra. Il prezzemolo. Sì. E lascia di cucinare per 30 minuti. Per 30 minuti. Sì. Beh, Francesca, Sara, Irene, ci siete? Ci siamo! Questo qua è un'ora terribile per raccontare le ricette, perché abbiamo tutti fame. Tra l'altro volevo chiedere a Sara e Irene, io secondo me questa, la terminologia del cibo nell'insegnamento dell'italiano agli stranieri è importante, immagino, no? Cioè il cibo è anche un elemento culturale fondamentale. Il cibo sicuramente unisce le persone, anche perché proprio conoscendo le ricette di un altro paese si può esplorare, insomma ci si interessa anche alle cose che sono più lontane da noi, e inoltre il cibo è anche una delle maggiori fonti di lavoro, no? Quindi imparare la terminologia del cibo è una cosa molto importante anche per le prospettive lavorative. Salà, tra l'altro tu sei, non sei proprio a Trento città, ma sei un po' fuori. Come stai vivendo in questo periodo? Un po' in solitudine, o ti aiuta anche fare i corsi di italiano? Sì, io faccio un corso italiano online con un volontario di Libera Parola. Sì. E anche con mia maestra di Centro Eda. Ho capito. E tu in questo momento stai lavorando? Riesci a trovare qualche cosa, oppure come tutti ti hanno messo a casa? No, loro hanno messo in casa. Ok. E avevi trovato un lavoro, sì. Però, giusto? Sì, io sto lavorando a Burger King. Ah, ok. Part time. Non si cucina la tagine, purtroppo, al Burger King. No. Si potrebbe fare, si potrebbe proporglielo. Francesca, Parli con una vegetariana, quindi io sia col pollo che col Burger King non vado molto d'accordo, però invece vado molto d'accordo con quello che ha, con la gentilezza con cui Salà ha voluto condividere questo piatto meraviglioso, insomma, che parla della sua terra. Per come l'ha raccontato quasi sentivamo i profumi, e voglio ringraziare moltissimo Irene e Sara per essere state con noi, molto più di quello che le avevamo chiesto, però veramente la vostra esperienza e il vostro impegno è bellissimo anche da ascoltare, da conoscere, e ci piace anche poterlo fare con un mezzo così auto-organizzato come è questa radio cura che ci siamo inventati, perché comunque anche la vostra esperienza viene dal basso, è un'esperienza di auto-organizzazione, e raccontare questi enzimi di positività, di solidarietà, di questa capacità di auto-organizzazione che ha la nostra società, che hanno le nostre comunità, penso che ci faccia ben sperare non solo per il futuro, ma anche per il presente che stiamo affrontando. E quindi direi a questo punto, Sara, Irene e Salà, se volete così, arriviamo al termine, direi, di questa nostra chiacchierata. Se volete fare un saluto a chi ci sta ascoltando, iniziamo magari da Salà. Sì, io voglio salutare, anche voglio dire grazie all'aiuto di Libera Parola Sì. Certo. per il loro aiuto e anche grazie per l'associazione di Gioco delle Spiche. Associazione Gioco degli Specchi, che sicuramente coinvolgeremo in una prossima trasmissione di Cura Radio. Sara, Irene. Un saluto. Grazie mille a voi per l'invito, è stato emozionante anche essere la prima a partecipare alla vostra prima diretta, grazie per il progetto e grazie chiaramente a Omar e Salah che hanno partecipato con le loro ricette, con la loro esperienza. Ecco, proprio grazie e buona serata a tutte E e tutti. grazie a voi. E un saluto anche a tutti quelli che magari sono a casa e in quarantena non sanno precisamente cosa fare e se volessero unirsi al gruppo delle conversazioni, sono i benvenuti. Benissimo. Grazie Sì, ancora per l'invito. magari Irene, già che ce l'hai fatto ricordare, ricordaci dove vi possiamo trovare. So che avete una pagina Sì, Facebook. c'è la pagina Facebook Libera la Parola Trento e lì potete contattarci anche se qualcuno è interessato sia a partecipare alle conversazioni o magari a un confronto. Siamo molto raggiungibili e interattivi su Facebook. Grazie molte. Tra l'altro sulla loro pagina Facebook trovate anche la ricetta di Salà, che insomma non fa mai male. E anche quella di Omar. E grazie mille, grazie a voi, grazie a Sara e Irene. Francesca, a questo punto cosa facciamo? Noi avevamo previsto delle altre cose questa sera, così facciamo il nostro copione in diretta. Cosa facciamo? Certo, allora guarda, se a te va, c'è Marzia Coronati che ci sta aspettando La per una breve chiamiamo? chiamata, se tu la puoi chiamare. Detto fatto, lo sto facendo. Perfetto, lo facciamo in diretta. Io intanto la presento brevemente. Allora, Marzia, innanzitutto sarà con noi domani e sarà una delle nostre ospiti. Domani, sempre alle 19. Per quello che sarà una trasmissione un po' più della mezz'oretta che avevamo pensato a questo punto, perché mi pare Decisamente, che la sì. stiamo volentieri sforando e questo ci fa piacere, vuol dire che insomma abbiamo voglia di stare assieme. Allora, Marzia Coronati è anche lei è una carissima amica, è una giornalista di Roma. E sarà con noi domani, però l'abbiamo chiamata oggi per spoilerare un pochino parte della trasmissione di domani, che appunto alle 19 parlerà sempre di noi, di come stiamo, ma vuole raccontare un altro spazio della nostra società che sta vivendo in maniera difficile in questo momento, cioè le carceri. Lo faremo addirittura con una triangolazione geografica che comprenderà quindi Trento, perché comunque il nostro territorio, il Trentino, è sempre un po' il nostro punto di partenza delle nostre chiacchierate, delle nostre riflessioni, però poi si connetterà anche con Roma, quindi con la situazione delle carceri romane e poi farà un piccolo excursus anche in Colombia, perché insomma abbiamo delle testimonianze importanti che ci racconteranno anche cosa succede in quella parte dell'America Latina. E allora, Marzia, siamo Francesca, riusciti a trovarla? Marzia c'è? Ciao Marzia. Ciao. Sì, sono qui, vi ascolto. Ciao ragazzi. Ciao Marzia, grazie mille di essere con noi. È davvero bellissimo ascoltare una professionista della radio, tra l'altro, quindi doppio onore. Troppo buona, Come grazie a stai? voi anche di avermi. Allora, sto abbastanza bene, non lo so, altalenante. In questo periodo, in questi ultimi giorni, un po' incavolata, devo dire. È passato il periodo della calma e comincia a transitare. Però, bene, dai. Vai Francesca. Allora, Marzia, domani starai con noi per un pochino di tempo in questa avventura un po' traballante, un po' divertente, un po' abbraccio che ci siamo inventati io e Mattia, e che speriamo che coinvolga sempre più persone. E ti vogliamo con noi per due motivi, anzi per tre. La prima è che ti vogliamo tanto bene, sei tanto brava e sei insomma una cara amica, questo l'avevo anche già detto, però come professionista della radio hai fatto due cose molto interessanti. La prima è questo blog di audio, di podcast interessantissimo che si chiama Calma Eccesso, che domani ci presenterai, e la seconda chiaramente invece è il percorso di suoni e di voci che hai fatto a Rebibbia e che arricchirà la puntata di domani, appunto, sulle carceri, che noi vogliamo provare a raccontare. Esatto, sì, è così. Poi se avremo tempo vi racconterò un po' gli esordi di Calma Eccesso e poi anche soprattutto di questo lavoro bellissimo, non tanto bellissimo per il risultato finale, che comunque vi consiglio di ascoltare, ma quanto per il percorso che ho fatto a Regina Celi, che è il carcere di Roma, uno dei due carceri, delle due carceri di Roma, che per me è stata un'esperienza fantastica, molto, molto arricchente. E quindi direi allora, cominciamo a darci un appuntamento con te domani sera, e vi ricordo che domani sera, se tutto va bene, diciamolo sempre questo, perché veramente stiamo costruendo questa cosa quasi nel momento in cui ve la stiamo dicendo, saremo in diretta da una casa qui a Trento che ospita degli ex carcerati che in prigione hanno cominciato a fare un percorso scolastico e che hanno deciso di continuarlo anche fuori dal carcere, ma non avendo i mezzi per farlo sono ospitati in questa struttura di cui vi parleremo domani. Avremo alcuni di loro al telefono con noi e un responsabile del progetto. Quindi a questo punto, Francesca, appuntamento a domani sera e andiamo con la sigla? Appuntamento a domani sera. Magari brevemente ricordiamo i nostri contatti, appunto Cura Radio, la pagina Facebook, Telegram, la nostra mail curaradio@autistici.org e il numero di telefono che è 349 05 35 715. Poi insomma trovate tutto sulle nostre pagine e domani, insomma, con domani inizieremo appunto l'esperienza del microfono aperto, che vorrà diventare un po' una delle parti più vivide di questa radiocura. E allora ciao a tutti e Social Capital con i Glad Rags. Ciao ragazzi. Ciao a tutti.